dopo un'ora d'amor, noi siamo tutto il mondo e qualcosa di noi è l'istinto che fa unire gli amori incuranti del re. Sento passare le tue dita leggere che poni su di me con finta ingenuità. Adesso che noi ci perdiamo ad ascoltare lunghi silenzi dopo l'amore, noi non siamo più soli. Dopo l'amore, tu respiri con me e restiamo così, solo noi a sognare felici di nulla. Io e te, lo stesso sorriso, dopo l'amore, siamo un essere solo. Dopo l'amore, io ti vedo così, ogni cosa ha un perché.